tutta innocenza. Nuda spoglia deve la sementa, persa nella fede altrui di niente mai le importa. Due d'abitudine l'ha resa donna semplice, non vince l'attitudine a non far l'amore inutile, sparisce, si richiude in sé. Ormai non da sola nel letto stasera, la pelle si scuole guardando la luna, ascolta la voce che viene dalla croce, ma quello che sente parola la mendace, ricerca la luce nel tetto di luce, ma ciò nonostante la croce non pace, volere creare, milioni di schiavi sommato su un ore. Parliamo più o parliamo per ore, un'ultima cosa di ti avrei da dire, senza seconda, la prima volta, non è. E mi trovo a ripeterti ancora, è l'una del malteplice ciò che ritorna, ho finito le forze e tu non vuoi capire, sono morto una volta, non posso.